Con questo sistema la nonna riceveva oltre 10.000 pacchetti di sigarette al giorno da smerciare. I fornitori onesti erano furibondi e si rivolsero alla polizia. Gli agenti si sentirono costretti a indagare e divennero così ospiti regolari dell'appartamento di famiglia, dal quale uscivano sempre con una o due stecche di Marlboro e un bacio su ciascuna guancia da parte della nonna. Quando al commissariato si sparse la voce, in casa arrivarono sempre nuovi agenti e i regali si fecero più generosi: gioielli, champagne, stereo. La nonna poteva permettersi quei doni allettanti. Nel tempo, la sua capacità di rifornirsi di sigarette e di smerciarle senza interferenze da parte della polizia le valse una reputazione in tutta Milano e presto divenne una ricettatrice molto importante che trattava ogni sorta di bene rubato, dalle autoradio ai Rolex d'oro, dai maglioni di cashmere ai video di seconda mano. Se a Milano qualcuno rubava qualcosa, lo portava prima di tutto da lei. Aveva il diritto di prelazione su ogni cosa. Ma non sopportava la concorrenza. Se qualcuno si faceva avanti, lo affrontava alla calabrese, eliminava il problema alla radice. La sua reputazione poggiava sul terrore. Con la polizia sul loro libro paga, tutti sapevano che i Di Giovine erano il clan più influente della zona. La nonna era analfabeta, ma sapeva contare i soldi, bene e in fretta. Era una vera madrina. Chi aveva un problema da risolvere si rivolgeva a lei e lei lo aiutava, generando così ulteriori favori e contatti. Dirigeva la sua organizzazione con precisione militare e la controllava con metodi militari. Le regole erano ferree e le conseguenze per chi le infrangeva gravi. Emilio si occupava di punire i trasgressori, ma se lui premeva il grilletto alle 11, era stata la nonna alle 10:50 a dirgli chi eliminare. E c'era sempre qualche problema da risolvere. Se un rivale cercava di vendere merce rubata o sigarette di contrabbando nella loro zona, Emilio gli impartiva una lezione. Piazza Prealpi apparteneva ai Di Giovine e la signora Maria voleva che tutti sapessero chi comandava lì. Emilio era il suo esecutore e pestava a sangue chi sgarrava. Chi intralciava i suoi affari, la prima volta veniva avvisato di andarsene, mentre la seconda veniva picchiato ferocemente. La terza t'ammazzo, e diceva sul serio. I suoi modi davano risultati e la sua determinazione a controllare la zona in nome dei Di Giovine Serraino attirava chiunque avesse un problema da risolvere. Imprenditori, ambulanti, negozianti e famiglie. Si rivolgevano tutti alla nonna, pagavano e poi aspettavano che Emilio eliminasse la loro difficoltà. E così, poco per volta, la famiglia si ritrovò a gestire uno dei racket di protezione più proficui di tutta la città. E se per qualche ragione in certi periodi la protezione languiva, c'era sempre il suo rovescio, l'estorsione. «Maria, ci sono questi ragazzini che continuano a rubare nel mio negozio!» «Signora, qualcuno mi ha distrutto il bar domenica notte!» «Maria, c'è quello là che tiene i prezzi così bassi che finirò per fallire e non potrò più rifornirmi da lei!» «Mandi Emilio!» era il ritornello costante, la panacea di tutti i mali. «Rivolgersi a mia nonna!» significava risolvere i problemi con più rapidità ed efficacia della polizia, che in ogni caso era pagata dalla famiglia proprio per tenere il naso fuori dal quartiere. La signora Maria controllava in toto il suo regno, la sua miniera d'oro. E così trascorsi i miei primi anni di vita non in un asilo, ma in un covo pieno di armi e merci rubate. Posso dire che la mia carriera criminale cominciò quando avevo solo pochi mesi. Infatti fu allora che ovviamente a mia insaputa, partecipai alla mia prima missione di contrabbando. Lo provano pure alcune foto. Le ha la polizia. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Marisa Merico, L'Intoccabile, da Milano a Londra, la vera storia di una principessa dell'Andrangheta. Sperling e Kupfer Editore, 276 pagine, 18 euro. Mentre da una parte si cerca di educare i bambini a un'alimentazione corretta, dall'altra ci sono molte scuole italiane che vietano le torte fatte in casa, privilegiando per le feste di compleanno degli alunni le merendine confezionate. Un paradosso solo in apparenza, perché in realtà dietro queste scelte c'è l'esigenza di evitare rischi igienici e sanitari. Sono tuttavia in continuo aumento le prescrizioni scolastiche che fanno discutere. Fino a qualche anno fa le regole da rispettare a scuola erano così semplici che le capiva pure un bambino. Niente corse lungo i corridoi, proibiti sputi e spintoni ai compagni, vietatissimi gli sgambetti. Per il resto ci si arrangiava. La maestra valutava caso per caso e interveniva se necessario. Adesso gli istituti scolastici partoriscono regolamenti ricchi solo di divieti, alcuni piuttosto bizzarri. L'ultima regola arriva da una scuola media di Savona. Una circolare scolastica ha vietato ai docenti di stringere amicizia su Facebook con i propri studenti. Il legame virtuale, ha spiegato il dirigente scolastico, potrebbe dare una sensazione di parità tra insegnanti ed alunni. Non sia mai che per la troppa confidenza si perda la riverenza. Ad Amburgo, qualche anno fa, furono le figurine di calcio a finire nel mirino dei presidi. Vietato scambiarsi gli adesivi della Panini in corridoio. A quanto pare la ricreazione veniva funestata da contrattazioni estenuanti che sfociavano in liti sanguinose. Nel frattempo, Jonathan Oliver, capo della Wye Valley School di Londra, ha deciso di rendere obbligatori i pantaloni per le proprie allieve. Nella patria di Mary Quant sono troppe le ragazzine che si presentano in aula con gonne corte. Sempre da Londra arriva la notizia di un altro originale divieto. A settembre allo Shelley College di Huddersfield sono stati messi al banco gli ombretti, i rossetti, i rimmel. E per scoraggiare le allieve, il preside si è dimostrato disposto a tutto, anche a rimuovere dai bagni tutti gli specchi. In Svizzera, invece, un istituto scolastico ha emanato una norma che vieta di spostarsi su due ruote per andare a scuola. Qualche giorno fa la scuola media di Camignolo ha infatti proibito agli studenti di raggiungere l'istituto con le biciclette. La regola è chiara. L'uso di biciclette, pattini, monopattini, motorini e skate sono vietati. Eventuali trasgressioni saranno punite con il ritiro dei mezzi in questione. I tempi sono cambiati, ma la minaccia della requisizione funziona ancora. La messa al bando delle due ruote dipende dalla convinzione del preside. Viaggiare in bicicletta è troppo pericoloso, con buona pace dei salutisti. Infine, a Latina, a una ragazza cieca è stato impedito di portare il proprio cane guida in aula. Ha provato a far cambiare il regolamento scolastico, ma di fronte all'intransigenza del preside, l'unica cosa che ha cambiato è stato l'istituto. Così imparano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesca Gallacci, Tra i banchi non si può, ormai è un ritornello, da Il Giornale dell'8 gennaio.